Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Domani, 1° marzo, a Villa San Giovanni, quindi siamo in Calabria, in questo ponte ideale sullo stretto, in attesa, semmai ci sarà, di quello, diciamo così, in mattoni, cemento, ferro, quel che sarà, quindi diciamo un ponte ideale tra la Sicilia e la Calabria, un ponte ideale tra le culture tante, bellissime e diverse di questo paese. Parte quindi a Villa San Giovanni un'iniziativa, un raduno che si chiama Un Mare di Alleanze, promosso dal consorzio Goel. Allora, vogliamo capire un po' di più e per questo noi abbiamo chiamato il presidente del consorzio, che è Vincenzo Linarello. Buongiorno Linarello. Buongiorno a voi. Allora, un mare di alleanze con chi e per fare cosa? Allora, il 1° marzo a Villa San Giovanni si inserisce in una tradizione iniziata già nel 2008, quando subito dopo la partenza di Monsignor Bregantini, che è stato spostato alla diocesi di Campobasso, noi promuovemmo l'alleanza con la Locri della Calabria. Un'alleanza che intendeva, da un lato, non far morire tutta quell'esperienza importantissima, quella primavera calabrese con le cooperative sociali insieme a Monsignor Bregantini, dall'altro lato aveva un chiaro obiettivo, quello di combattere l'andrangheta e le massonerie deviate in Calabria e al nord contemporaneamente. In Calabria aiutando a costruire delle alternative concrete, al nord cercando di fermare l'infiltrazione. Linarello, lei mi piace, sa perché? Perché è uno tra i pochissimi interlocutori, e io in questi 25 anni di carriera ne ho sentiti migliaia, che ha avuto il coraggio, non essendo un magistrato, e poi anche tra i magistrati, ahimè, c'è chi frequenta le logge, di parlare di massoneria deviata. Guardi che è rarissimo, è quasi un miracolo. Ma come mai ha questo coraggio lei? Ma è un problema serissimo, perché questa alleanza tra i vertici dell'andrangheta e le massonerie deviate, noi crediamo che sia veramente il nodo di forza fondamentale di questa organizzazione mafiosa. E anche io, ahimè, noto come spesso anche all'interno del mondo dell'antimafia c'è una molta ritrosia ad affrontare onestamente questo problema, quando si sa che addirittura 30 anni fa l'andrangheta ha istituito in cima ai propri gradi gerarchici proprio delle figure addette all'infiltrazione nelle massonerie deviate. Assolutamente sì, non c'è inchiesta da 30 anni a questa parte che non parli di questo. Però c'è una reticenza che addirittura supera quella nei confronti dell'andrangheta. Assolutamente sì, ma infatti mi ha sorpreso. Guarda, io lo sto scrivendo ormai da anni, queste cose le sto scrivendo da anni. Devo dire che ho pagato anche il mio prezzo per questo, però sono contento ovviamente di averlo pagato, perché bisogna essere liberi fino in fondo. Assolutamente. Allora, Linarello, questa alleanza ha avuto un successo straordinario. Nel senso che, pur senza clamori, mi viene malignamente da pensare se c'entri questo argomento che abbiamo trattato, ha ottenuto l'adesione di ben 735 enti in tutta Italia e oltre 3.000 persone a titolo individuale. E ogni 1° marzo noi ci vediamo per, da un lato, farci contare, perché è importante che veda che c'è l'andrangheta, le massonerie deviate vedano che c'è una rete così ampia. Certo. Che supporta questo percorso, ma dall'altro lato anche con la concretezza di chi vuole fare il punto su delle cose fatte e delle cose da fare. Ce ne racconti una di cose che avete fatto nel 2010, soltanto una testimonianza delle tante che avete fatto. Ma noi sostanzialmente dentro l'alleanza abbiamo fatto questa sorta di patto, di dire chiediamo al nord di dare una mano a sviluppare attività di imprese sociali come quelle che sviluppiamo con Goel quotidianamente, che creino l'alternativa concreta ai bisogni fondamentali delle persone, perché non dobbiamo dimenticare che l'andrangheta e le massonerie deviate controllano le risposte ai bisogni fondamentali delle assolutamente, persone. Assolutamente, assolutamente. Quindi non controllano il territorio solo con la violenza. Certo, quindi assolutamente. Il tema dell'alternativa è fondamentale. Al nord invece abbiamo aiutato l'avvio di alcuni osservatori civici territoriali. Benissimo, e di questo ne parleremo nei prossimi mesi, perché mi farà piacere sapere che cosa state facendo e quali risultati avete raggiunto al nord. Al volo un sito per avere le ultime informazioni. Sì, allora il sito è quello di Goel, www.goel.coop, e volevo solo dire che la caratteristica della manifestazione di domani, del raduno di domani, sarà quello di avviare dei laboratori congiunti Nord Calabria, dove svilupperemo nei vari ambiti, amministratori pubblici, sindacato, volontariato, delle iniziative congiunte contro queste mafie da realizzare contemporaneamente in Calabria e al nord. Perfetto. Domani a Villa San Giovanni, un mare di alleanze. Grazie a Vincenzo Linarello, a Filippo Regi in regia, a Laura Fagini in studio, Roberto Calullo vi augura una buona giornata.